Per avere una voce più bella, musicale, che non sia piatta, ci consigli un paio di esercizi, anzi uno, perché poi dobbiamo dare la linea ai mercati e poi ritorniamo dopo insieme? Insomma, potremmo lavorare un po' di più sul canto, no? Quindi sull'eufonia, sulle cercare di usare più note possibili. E per esempio un esercizio molto divertente è quello di fare esercizi di quinte con la R. Molto velocemente. Però si canta anche un po'. Andiamo ai mercati e poi ritorniamo subito dopo insieme.